anch'io Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Signori, siamo qui alle 7:20 minuti in punto, anzi 7:20 minuti tra 3, 2, 1, 7:20 minuti, eccoci, è il momento di accelerare le vostre colazioni che siete un po' in ritardo, vi vedo a casa, dai vestiti, metti i pantaloni, Giorgino, fai il bravo. Vi vedo, dai, andiamo a leggere i giornali, eh. There is an Italian saying, patti chiari, amicizia lunga. Niente, si sono innamorati di questo Obama lì, Carmelo Lauricella in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Patti chiari, ha detto un po' chiari, eh? Chiari più che chiari, però dai, migliora in pronuncia, Obama, un bel 7,5 già glielo diamo in italiano. Allora signori, siamo a giovedì 20 ottobre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre su IVA, studi di settore voluntari, ecco le novità del decreto fiscale, cioè lo studio della manovra. E anche l'apertura per Repubblica, ma sul fronte europeo, braccio di ferro tra Unione Europea e Italia sulla manovra, mentre anche la stampa punta su questo, Renzi rilancia la sfida all'Europa. Il Fatto Quotidiano accusa il decreto condono, non esiste ma fa già danni, non si paga più, è il caso delle cartelle Equitalia, e anche il giornale Equitalia, ecco cosa fare. Libero invece, dopo i contanti, assalto ai gioielli di famiglia, lo Stato ci ruba anche la catenina della nonna. L'unità, crescita e migranti, l'Italia incalza l'Unione Europea. Mentre l'apertura del Corriere della Sera è dedicata alla Libia, patto con Tripoli, gli aiuti italiani, motovedette, auto, squadre speciali per i migranti e terrorismo. Insomma, la Libia batte cassa. Migranti per il Messaggero, decreto migranti, costi record, accoglienza al collasso. Il governo stanzia altri 700 milioni in aggiunta al miliardo già speso. E a proposito di costi, l'apertura della Verità è questa. I profughi sono già costati 12 miliardi. Il Ministero dell'Interno e dell'Economia forniscono numeri contraddittori al ribasso, ma uno studio di Impresa Lavoro snocciola queste cifre che fanno impressione. Allora, però, voglio partire da cosa? Dal silenzio da Marte. Silenzio da Marte. Come racconta il Corriere della Sera con Giovanni Caprara, pagina 20, tutti i giornali raccontano il segnale perso un minuto prima che la sonda Schiaparelli toccasse il suolo del pianeta rosso. E dunque fiato sospeso per questa sonda europea con tecnologia italiana, che non dà più segnali. Mancavano 50 secondi all'atterraggio quando il segnale della capsula Schiaparelli si è interrotto all'improvviso. La situazione che si è creata è critica, ma non si può dire che lo sbarco sia fallito. Così Paolo Ferri, direttore operazioni dal centro di controllo di Darmstadt, spiega con molta cautela gli ultimi passi della capsula, che alle 16:49 doveva posarsi nella grande pianura Meridiani Planum, nell'equatore marziano. Invece il silenzio ha avvolto Schiaparelli. Cosa è accaduto all'improvviso? Scorrendo la sequenza delle manovre che la capsula doveva compiere, precisa Ferri, possiamo dedurre che tutto sia andato bene sino all'apertura del paracadute. Anche lo scudo che aveva protetto il modulo di sbarco dalla vampata di calore generata dall'attrito con l'atmosfera si era separato correttamente. A quel punto, però, si innescavano altre manovre nelle quali potrebbe essere nascosta la causa del silenzio. Tutto è stato gestito autonomamente dal computer di bordo, perché Marte in quel momento era lontano 175 milioni di chilometri dalla Terra e il tempo richiesto dalla comunicazione era 9 minuti e mezzo, quindi dalla Terra era impossibile governare. Il silenzio di Schiaparelli ovviamente ci si chiede, e si chiederanno gli scienziati anche, che cosa comunque abbia portato questa missione, che è finita al momento con un mistero. Vabbè, Libero la mette in polemica, l'Europa non funziona neanche su Marte, la festa per lo sbarco sul pianeta rosso era pronta ma si trasforma in giallo, si sono persi i contatti con la sonda. Però certo è molto affascinante, perché questo mondo, no? Che ci porta anche su pianeti lontani, seppure del nostro sistema solare. Raccontato oggi sul Corriere della Sera, l'articolo migliore di Giovanni Caprara, sono due pagine, 20 e 21, anche tutta la spiegazione, le ipotesi di quello che potrebbe essere successo, è interessante da approfondire e leggere. Mentre se veniamo all'Italia ci sono alcune notizie che mi hanno incuriosito. La prima riguarda il mondo della scuola, è una vicenda di cronaca raccontata dal Giorno a pagina 18, l'incubo droga, lo spaccio fuori dalle scuole, ma qui c'è una storia che intreccia anche vicende personali, molto personali, come questa di Ancona, spaccia davanti alla scuola, viene arrestato, è il figlio della preside. La preside che in qualità di madre e preside viene intervistata dal Giorno, Alberto Bignami la intervista, pagina 18, Milena Brandoni parla da preside ma da madre anche ferita, e quando dice i poliziotti stavano cercando un ragazzo con i capelli lunghi, poi è arrivato un agente e mi ha detto ho una brutta notizia e ho capito. Io stessa dicevo ai poliziotti di mettere paura a mio figlio. È cominciato tutto l'anno scorso quando lui è stato vittima del bullismo. Si è chiuso in casa dicendo non ho reagito, non valgo niente, non mi sono ribellato, non li ho menati. E io gli dicevo hai fatto bene, gli ho risposto, il bullismo è devastante, mio figlio è un buono. Aveva ricominciato poi a frequentare la scuola dopo averla lasciata un periodo, speravo che riuscisse a riprendersi da questo episodio, ma è andato in depressione. Ma lei si rimprovera qualcosa? Da dirigente sono spesso impegnata a scuola, forse ho controllato poco, ma negli ultimi due anni sono stata molto presente. Quando mio figlio riceveva telefonate correvo a vedere il numero. Io stessa telefonavo ai ragazzi che gli davano marijuana, mandavo messaggi al telefono dicendo non chiamate più, non tormentatelo. Allora la responsabilità di chi è? La responsabilità è anche di mio figlio, dice questa preside mamma. È la responsabilità sia di chi vende sia di chi compra. E insomma è interessante questa intervista che intreccia un problema pubblico e anche un dramma personale. La trovate sul Giorno. Mentre interessante questa vicenda che, attenzione, riguarderà certamente milioni di italiani, anche se la vicenda processuale è singola ed è una donna che è stata condannata, ma sentite qui, scredita l'ex marito davanti al figlio condannata a pagare 30.000 euro. Quanti di voi parlate male dell'ex coniuge in presenza dei figli di entrambi o del figlio di entrambi? Attenzione! Questa madre che al figlio ha detto peste e corna dell'ex marito è stata condannata da un giudice a pagare 30.000 euro, Tribunale Civile di Roma. E il giudice dice se continua a parlare male dell'ex marito davanti al figlio ci saranno conseguenze anche sull'affido. È una storia di due divorziati, hanno tre figli in affido condiviso, i due maggiori hanno un rapporto di complicità e condivisione col padre, il terzo invece si rifiuta di frequentarlo, è divenuto maggiorenne durante la causa e insomma qui poi entrando nel merito del giudizio il giudice ha evidentemente stabilito che la mamma palesa la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito, non pone in essere nessun comportamento per riavvicinare il figlio al padre. Risultato 30.000 euro da pagare. E va bene, questo accade. Ma siamo all'articolo che mi fa la giornata. In realtà è una buona notizia, ma parte da una vicenda che fa arrabbiare. In Spagna ci sono alcuni ristoranti che utilizzano la parola mafia, una delle parole più diffuse al mondo. È solo che i ristoranti si chiamano così, la mafia, oppure la mafia si siede a tavola. Altro ristorante che pare vada per la maggiore in Spagna. E Repubblica di recente fece una inchiesta su questo. Ora l'Unione Europea è intervenuta, niente più cena con il boss. L'Unione Europea vieta ai ristoranti spagnoli di usare il marchio mafia. Quindi almeno l'epilogo è buono, ma certo la notizia iniziale è terribile. Già stanno pensando a come smontare le gigantesche sagome di Don Vito Corleone, oscurare le foto di Lucky Luciano, sostituire i ritratti di Calogero Vizzini e Giuseppe Genco Russo, e come rimpiazzare il menù di San Valentino per festeggiare gli innamorati, ma anche Al Capone e la strage di Chicago del 14 febbraio 29. Cioè, capite, c'era il menù di San Valentino per la strage di Al Capone. In Spagna, per ordine dell'Europa, devono rifare il look alle vetrine e cambiare questo nome. Mafia va tolto. Buona notizia, ma l'articolo è di quelli che in origine faceva un po' agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. E Alessandro, sono il Papa Francesco, e te volevo dire che tu sei un po' il Maradona della informazione. Però non parlare male del PIB del 10, perché ti aspetta un pugno. Ciao. Va bene, grande, grande, grande. Mi inchino al Papa, sua santità, e allora andiamo avanti. Grazie, grazie. I giornali raccontano di un Renzi che difende la manovra in questo braccio di ferro che c'è con l'Unione Europea. Tutti gli anni di questi tempi c'è questo rischio, ci guardano bene, scrutano i conti da Bruxelles. Da Washington Renzi difende la manovra. L'infrazione dell'Unione Europea la diano a chi respinge i migranti. Tra l'altro ha usato proprio anche la metafora della sonda su Marte. L'Unione Europea va su Marte, è appena atterrata la sonda, ma non riesce a affrontare l'emergenza migranti, dice Renzi. L'Europa si congratula per la strategia italiana, ma si limitano ad aprire le labbra e non le porte. E ancora, mi aspetto una procedura di infrazione dell'Unione Europea, ma per i paesi che dopo essersi impegnati non hanno fatto la relocation dei migranti, mica per l'Italia, che tra l'altro con la nuova legge di stabilità rispetta tutte le regole europee, comprese quelle che non condivide. Insomma, è un Renzi d'attacco sulla manovra, anche perché il clima non è quello ideale. Racconta Repubblica in prima pagina, braccio di ferro tra Unione Europea e Italia. Alberto D'Argenio e Roberto Petrini raccontano che i conti pubblici italiani sono passati al setaccio a Bruxelles. E raccontano a pagina 6... L'Europa si prepara a scrivere all'Italia contestando la legge di bilancio appena varata per il deficit al 2,3% del PIL e anche per l'eccessiva presenza di misure una tantum, ma Matteo Renzi non intende fare marcia indietro. A questo punto entrano in ballo calendario e strategie del governo italiano. La legge di bilancio è ancora un testo aperto. Sabato è stata varata, infatti, salvo intese, dunque l'articolato può cambiare. Tanto è vero che anche per avere più tempo il provvedimento, che sarebbe dovuto arrivare alla Camera oggi, arriverà solo lunedì 24. Intanto al Tesoro si è riaperto il cantiere della manovra. Insomma, questa manovra in realtà è ancora tutta, come dire, da scrivere. Ci sono le linee generali. E sicuramente il rapporto con l'Europa determinerà poi tutti gli elementi che verranno scritti. Guardate anche La Stampa, in prima pagina Marco Zatterin, la tregua referendaria di Bruxelles. Che cos'è la tregua referendaria? È che l'Unione Europea attende il Premier al varco, ma non ci sarà uno scontro fino al referendum. Francesi e tedeschi, racconta La Stampa, sono infastidite dei toni del capo del governo, quindi dai toni di Renzi. Però il voto di dicembre è ritenuto cruciale per la stabilità. Quindi, racconta La Stampa, Renzi giunge a Bruxelles forte dell'investitura stelle e strisce quale potenziale salvatore dell'Europa, ma nella capitale europea, vestita a festa per il vertice d'autunno, il premier sbarca per dar battaglia sui migranti e in controluce per difendere la sua manovra. In città troverà un clima di pace artificiale, tanto dolce quanto fragile e armata. Nessuno tra i partner vuole dissidi con l'Italia a meno di 50 giorni dal referendum, ma ciò non significa che tutti siano entusiasti di come il governo amministra l'economia, amministra le frontiere e di come si rivolge all'Europa. Dunque, forse una tregua armata, ma Germania e Francia ci guardano un po' col fare sospetto. Anche Federico Fubini lo conferma sul Corriere della Sera, la tensione tra Roma e l'Unione Europea. Il faccia a faccia Renzi-Juncker, che troveranno oggi un attimo per parlarsi, oggi o domani a Bruxelles, e sarà probabilmente un lungo attimo, scrive Fubini, Tra il presidente della Commissione e il premier italiano sta infatti montando un coacervo quasi inestricabile di problemi finanziari, questioni legali, dilemmi politici, tensioni dentro e attorno alla Commissione. In una pausa del vertice di oggi e domani, Juncker chiederà a Renzi che l'Italia accetti uno sforzo in più per evitare nel 2017 il peggioramento troppo drastico del suo deficit strutturale, quello calcolato al netto delle entrate fiscali passeggere e dei danni prodotti da una ripresa di fatto assente. Ma se il Premier rifiuterà, per la Commissione resteranno poche ore per prendere una decisione scomoda, scegliere se mandare entro lunedì o martedì una prima lettera ufficiale a Roma che chiede chiarimenti e tiene aperta l'opzione di approvare dopo un'altra settimana un atto ufficiale con cui Bruxelles respinge la bozza di legge di stabilità e impone al governo di rimandarne una migliore. Ecco, quindi ci si gioca tutto su questa tensione. Se veniamo invece all'Italia, il dibattito sul referendum, beh, oggi Francesco Verderami, siamo sul Corriere della Sera, pagina 10, dice che Berlusconi è tornato ieri, prima l'intervista a Canale 5, poi ieri un vertice con Salvini e Meloni, un vertice definito dal Corriere vertice dei sospetti, perché Meloni e Salvini pensano che Berlusconi non sia così schierato apertamente per il no. D'altronde Berlusconi avrebbe opposto anche questa ragione: ho 80 anni, sono stanco, dice, per non esporsi troppo e per difendersi. Mentre Salvini dice: il leader sono io. E anche Altero Matteoli, uno che ne ha viste tante, dichiara: il fatto è che nessuno crede a un Berlusconi davvero schierato per il no, quindi bisognerà lavorare per convincere la gente che davvero Berlusconi è schierato per il no. Il tema nel centrodestra è questo, un po' di pace armata anche nel dibattito di sinistra sul referendum, ma sul referendum c'è una foto. Signori, una foto, io l'ho già messa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, potete vederla lì. Io non ci volevo credere, l'ho dovuta riguardare 5 volte, 6 volte, 7 volte. Sapete che è decisiva la battaglia anche sui voti all'estero. 4 milioni di italiani che votano dall'estero e quindi ci sono comizi, trasferte. Ci sono persone che voteranno. Si possono avere anche, si racconta, 400-500 mila voti ancora in ballo. E allora c'è questa foto, pagina 10 di Repubblica. In Kenya i Masai testimonial del sì. Io l'ho vista, ho detto, come descriverla? Ci sono 4 Masai, avete presente? Vestiti con i vestiti tipici dei Masai. A fianco al cartello basta un sì. È un'iniziativa del comitato dell'imprenditore alberghiero Pasquale Tirito, che ha convinto le popolazioni locali a posare davanti al manifesto pro riforma. I Masai schierati per il sì, tutti lì sorridenti, dovete immaginare, con le loro catene al collo, le loro collane, i loro vestiti rossi molto lunghi, i loro bastoni. I Masai sono per il sì. Ecco, io vi prego, basta, perché così finisce in burletta. Dopo dicono che sono io che faccio le burle, che faccio gli scherzi, che celio, che la prendo un po' alla leggera, ma io, se vedo 4 Masai in foto che sono schierati per il sì, ma voglio dire, ma non finire in burletta, ma ci siamo già finiti da un pezzo, capite, cari italiani? Fermatevi con queste iniziative. Ma finalmente abbiamo qui il più noto conoscitore del popolo Masai, che ci spiegherà tutto del perché di questa foto. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. No, sospendo per ora il giudizio, perché devi vedere la foto. Se i marziani sono per il sì, bisogna avere dei segnali ancora dalla sonda, quindi finché non siamo certi. Invece abbiamo dei segnali importanti sulla manovra. Sì. Allora, tra noi e l'Unione Europea ballano 5 miliardi. Questo troverai. Adesso vedo, avete il resto? Potete darmi il resto se ve ne do un po' di più? Sì. Ecco, perché no? Allora, tu devi leggere, fuori di celia, devi leggere molto attentamente oggi le pagine iniziali del Sole 24 Ore, laddove andiamo a illustrare che cosa c'è, ad esempio che cosa si prepara nel decreto fiscale, perché sai che la manovra sarà in due provvedimenti, un disegno di legge e un decreto fiscale. Allora, ad esempio sul decreto fiscale, anzi nel decreto fiscale, gli studi di settore che non saranno più utilizzati per l'accertamento, ma saranno solo indicatori di compliance. Come va la tua compliance, caro Alessandro? Sono molto compliancer. Sei compliant? Compliant. Abbastanza compliant. Sì, sì. Non è solo quella la novità, c'è anche ad esempio la chiusura quasi in automatico delle partite IVA che non vengono più utilizzate e molto altro ancora, tutto quanto a pagina 3. Ma poi ti voglio dire invece tutte le misure per il risparmio che si attendono invece nel disegno di legge. Così come nel disegno di legge ci sono gli interventi per la riscossione, ma ne parliamo più attentamente, più diffusamente in norme e tributi. Perché come si legge il Sole 24 Ore, caro Alessandro? Beh, dipende dalle parti, insomma. Avidamente, certamente. Tuttavia bisogna leggerlo tutto. Anche. È consigliabile leggerlo tutto. Se la cosa non ti è chiara, sappi che oggi c'è in edicola con il Sole 24 Ore anche il come si legge il Sole 24 Ore, che sono i grandi temi dell'economia illustrati appunto con le parole del Sole 24 Ore. Tra l'altro parliamo di globalizzazione questa volta e sempre nelle primissime pagine del Sole 24 Ore trovi questo importante approfondimento sull'economia cinese e anche i rapporti con l'Unione Europea. Cresce ma con qualche perplessità. Poi leggere attentamente, ecco, potremmo dire che il Sole 24 Ore va letto attentamente e troverai tutte queste informazioni. A Voluntari come stai messo? Guarda che anche i comuni a discragio anche i comuni saranno chiamati a collaborare alla fase 2 della Voluntari. Ti voglio segnalare, guarda, perché c'è tanto da leggere e il tempo fugge, l'uomo non se ne avvede, che la cosa più inquinante in questo momento in pianura padana è l'inquinamento da pellet. Sai le stufe a pellet? No, certo. Ecco, leggi l'articolo di Jacopo Giliberto, l'articolo da meditazione di oggi nella pagina dei commenti. E poi, ugualmente importante, all'interno di norme e tributi, insieme a molte altre informazioni, troverai anche questa sentenza della Cassazione che dice sì, si può rifiutarsi di lavorare in un giorno festivo e non per questo bisogna subire una riduzione di retribuzione. È un aspetto interessante su cui ti invito a meditare. Nel frattempo, naturalmente, e tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, che lese il giornale un cu e anche a domani! Va bene, domani è venerdì, quindi sì. Allora, vado sul Corriere della Sera, pagina 2 e 3, perché attenzione, la Libia batte cassa, signori. La Libia, non è la prima volta, eh? Quante volte avete sentito la Libia, abbiamo bisogno di aiuti per cooperare, cercare di fermare i migranti che poi puntualmente partono? E però, ci risiamo, motoscafi e jeep. Tripoli chiede aiuti. Fiorenza Sarzanini a pagina 2-3 del Corriere della Sera. La Libia chiede aiuto all'Italia in materia di immigrazione e terrorismo. La trattativa avviata dagli specialisti del Viminale, quindi del Ministero dell'Interno, e della Farnesina, esteri, è già entrata nella fase cruciale dopo due incontri tecnici avvenuti a Tripoli. E cosa prevede tutto ciò? Prevede consegna di apparecchiature per il controllo del territorio, autovetture, materiali per gli uffici. Insomma, computer. 10 motovedette fuori strada, autovetture, dispositivi tecnologici per la vigilanza delle coste. Ripeto, è la prima volta che sentite questa? No, non mi sembra. Però, tra l'altro, gli italiani sono già lì a cooperare con i medici che hanno aperto l'ospedale. 300 uomini per gestire l'ospedale da campo. 65 medici, 135 addetti alla logistica, 100 parate alla Folgore. La Libia chiede ancora più soldi, ancora più aiuti, ancora più cooperazione per fermare i terroristi e i migranti. Ma a proposito di soldi, salto invece sul Giorno, c'è questa cifra, Banca Italia, e questa cifra è 5 miliardi l'anno. Sapete cos'è 5 miliardi l'anno? È il totale più o meno delle rimesse, cioè i soldi che attraverso i money transfer tornano nei paesi di origine degli immigrati che lavorano qui in Italia. Certo, però il punto di partenza è rischio terrorismo e riciclaggio. Questo è il lato scuro dei money transfer. Sabrina Pignedoli racconta il viaggio nelle agenzie. Così si aggira il tetto di 1000 euro per ogni invio, tetto che ci sarebbe fuori dall'Italia, 5 miliardi l'anno. E dove vanno questi soldi? Beh, la classifica del 2015 delle rimesse vede in testa la Romania con 847.630 euro, poi la Cina, al terzo posto il Bangladesh e poi Filippine, Marocco, Senegal, India, Perù, Sri Lanka, Pakistan. Il totale delle rimesse del 2005, del 2015 è 5 miliardi e 200 milioni di euro. Il totale delle rimesse del primo trimestre del 2016 1 miliardo 200 milioni. Ovviamente difficile controllare, dicono gli inquirenti, chi riceve questi soldi, cioè sono soldi solo che vanno alle famiglie di origine dei lavoratori qui in Italia? Il dubbio persiste. Tra l'altro, a proposito di costi sui migranti, oggi sia il Messaggero che la Verità hanno l'apertura su questo. Il Messaggero dice: l'allarme sbarchi, pronto il decreto, ecco altri 700 milioni per l'emergenza, visto che i centri di accoglienza sono ormai al collasso, vengono utilizzati anche alberghi e case, e il governo prevede un fondo una tantum per i comuni che accoglieranno i profughi. 700 milioni in più pronti da mettere su questo decreto. A proposito sempre di costi, i costi dell'invasione, li chiama così la Verità con il titolo di prima pagina. Quanto ci sono costati i migranti non lo dice, non sono dati del Ministero dell'Economia e del Ministero dell'Interno, che secondo la Verità sono dati al ribasso. Francesco Borgonovo scrive: in realtà i costi li abbiamo presi da uno studio di Impresa Lavoro, e il costo complessivo negli ultimi 6 anni per l'accoglienza dei migranti supera gli 11 miliardi di euro, con una progressione impressionante. Spenderemo nel 2016 5 volte la cifra impegnata nel 2011, con un esborso per le casse dello Stato che arriverà a 4 miliardi e 100 milioni di euro su base annua. Così almeno sulla Verità, per l'accoglienza abbiamo speso 12 miliardi. Lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina, sul mio profilo pubblico Facebook. Siamo in diretta video in questo momento col buon Lorenzo Nespoli, che è qua che mi guata dall'alto. La cronaca: dopo 22 anni dall'omicidio di Ilaria Alpi, inviata del TG3, e del suo operatore Miran Rovatin in Somalia, non ci sono colpevoli. Questo è un dato di fatto. È stata annullata a Perugia la condanna del somalo Ashi Omar Hassan, che era l'unico imputato, era in carcere per questo omicidio, libero dopo 16 anni di carcere, quindi si è fatto 16 anni di carcere. Era un capro espiatorio, evidentemente, questo hanno stabilito i giudici. Risultato: Ilaria Alpi ora è tutto da rifare. 24 anni dopo non si sa, 22 anni dopo non si sa nulla su questo omicidio, su chi sia il colpevole o i colpevoli. Vi segnalo due pagine di Avvenire, pagina 6 e 7, e cioè Avvenire si concentra con Paolo Ferrario sulla legge per il contrasto al caporalato, approvata martedì al Parlamento. Non è un traguardo, ma un punto di partenza per ulteriori iniziative a favore della dignità del lavoro agricolo e dei lavoratori dei campi. Avvenire fa due belle pagine dedicate a questo. C'è anche un'intervista alla presidente della Camera, Laura Boldrini, che dice appunto: la legge sul caporalato è un punto di partenza dedicato a tutte le braccianti che hanno avuto fiducia in noi. L'intervista di Antonio Maria Mira a Laura Boldrini la trovate su Avvenire. Segnalo anche che Emma Bonino ha dichiarato su Radio Radicale un annuncio, ha fatto: credo che il tumore se ne sia andato. E beh, una bella notizia quella di Emma Bonino, che ha reso pubblica, anche sfidando le critiche. Lei dice: io da torinese, da piemontese riservata, mi era costato molto mostrare questa fragilità intima, e ora ancora pubblicamente ha dichiarato che il tumore se n'è andato. Così Emma Bonino. Ma siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scavato sui giornali. Eccolo qua, siamo sul Giorno, un'intera pagina, basta, i selfie, le foto, Benigni, Agnese, Michelle, il Gran Galà, stelle, baci, Matteo, dice il Giorno, è buono come il pane. Ma chi se ne frega!